Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Stasera siamo un po' anomali perché in conduzione con 451 frammenti sonori c'è il conducente, diciamo, quel sì, con conducente capo qua. Salve, come stai, caro? Bene, tu come stai? Io, guarda, meravigliosamente, adesso poi che ti vedo di fronte. Sì, tutto sudato, tutto soprattutto sudato. Facciamo schifo, sì. Facciamo abbastanza schifo, scusate anche il ritardo perché abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, ma non ci siamo neanche resi conto dell'ora perché siamo talmente sudati lungo il tragitto che sì, proprio queste presentazioni qua che sanno già di viscido, quindi uno dice cosa devo ascoltare questi zozzoni, no? Sì, infatti non è proprio estremamente entusiasmante come inizio. Comunque effettivamente, come sentirete, la voce del grande Max Macchia, che ovviamente conduce usualmente 451 frammenti sonori, nel senso che lo usi in tutti i sensi. Io sto cercando di battagliare un po', sto facendo un po' una guerra col microfono perché mi sento poco, però perché sei basso in realtà. Sono cioè, io basso. C'ho il vocione alla Barry White e tu invece sei basso, oppure c'ho il gain quasi al massimo. Forse sono le cuffie il problema, infatti. Eccolo qua, perché stiamo sparando a 300.000 volt tutto il volume. Ecco, adesso siamo più equilibrati, diciamo così. Sei contento, insomma? Sì, però se continui ad alzare il volume io tra poco mi sfondo completamente il cranio. Comunque, vabbè, a parte... Beh, poi d'altronde mancavano, no? Questi momenti qua di come dire, momenti di lotta con la macchina, sì, no? Sì, la guerra con la tecnologia, no? Insomma, che tutte e due l'abbiamo sempre avuta. Comunque, beh, sì. Eliseo Scarpa e Max Macchia. Oh, questa grande presentazione, secondo me gli ascoltatori staranno veramente togliendosi gli ultimi peli della barba, dei capelli, non i vestiti. No, secondo me sono già nudi con sto caldo, perché non lo so, qua in studio è veramente interessante, anche perché potremmo sperimentare delle saune senza però l'effetto della sauna, però villaggio della non salute, comunque 451 frammenti sonori stasera, come avevamo già annunciato un po' di tempo fa, ma anche il nostro blog No Blog e anche su Facebook, anche se non amiamo moltissimo questo simpatico sito, questo social network, se vogliamo essere più corretti, avevamo già annunciato che avremmo fatto una puntata speciale di chiusura di 451 frammenti sonori per la stagione 2014-2015, condotta appunto insieme da sottoscritto e da Max Macchia, e faremo la stessa cosa. Perché non sei tu Max Macchia? Sì, sono io. Sono tutto e nessuno. E oltretutto ricordiamo anche che il 13 di luglio, che sarà un lunedì, sarà l'ultima puntata anche di 451 intersezioni, che è lo spazio che appunto è il secondo, diciamo, l'altro spazio del nostro diciamo network, usiamo sta parola, 451, e chiuderemo appunto sempre insieme Eliseo Scarpa e Max Macchia la puntata, l'ultima puntata di 451 intersezioni, il 13 luglio. Bene, mi sono abbastanza incasinato, possiamo lanciare il tema di stasera. Ma perché? Perché il tema si tratta sempre di intersezioni, quindi abbiamo voluto proprio fare un po' di mescolare le carte, da un po' che non lo facevamo, e quindi 451 intersezioni jazz rock. Sì, certo. Jazz rock, tra l'altro, faccenda che riguarda 451 frammenti sonori proprio dalle origini, visto che uno dei due, un 50% viene da quelle esperienze, l'altro 50% viene più dalla New Wave. A voi scoprire chi viene più dal jazz rock e chi viene più dalla New Wave dei due. E quindi volevamo, insomma, nostra maniera, chiaramente la solita maniera per chi ci conosce, quella comunque di creare una dialettica, un filo rosso rispetto a uno dei momenti comunque della storia del rock, del jazz, appunto del mescolamento tra i due, che comunque è stata foriera di grandi musiche poi che per molti aspetti poi si sono trasformate. Comunque stasera avremo modo di parlarne, appunto, anche di chiarire anche la faccenda annosa tra jazz rock e fusion, perché insomma lì poi si sono fatte anche molte, si è fatta molta confusione, qualcuno ci ha giocato anche in termini di marketing industriale. E anche molte faccende, insomma, sono scivolate comunque su musiche più banali, partendo però da inizio, l'iniziatore di tutta la faccenda è un certo Miles Davis, e andiamo a prendere da una delle prime registrazioni che poi vengono fuori da quella fine degli anni 60, primi anni 70, registrazioni poi anche rielaborate. C'è stato questo esperimento incredibile di Davis nel corso degli anni 70 nei vari live, tutti incredibili, perché le musiche sia in studio con Matteo Massero che assemblava, tagliava e cuciva, ma anche dal vivo, perché appunto c'era un'improvvisazione legata al jazz e al rock, appunto a Davis con la sua band reinventava sempre pezzi, li dilatava, li rendeva più psichedelici, a volte cosmici, altre volte toccava quasi lidi di free music, quindi musica totale, incrociando veramente quello che poi sarebbe diventato le nuove elettroniche come attitudine di certo trip hop, di certa jungle, di certo suono astratto, se vogliamo, ambient. Quindi buona parte, insomma, degli anni 90 hanno guardato a Davis degli anni 70, molte anche cose della wave insospettabili, se pensiamo a Clock DVA, a quanto fossero stati attenti proprio ai lavori di Davis e a quanta genia poi ha dato e tuttora riesce a dare incredibilmente Davis. Poi, partendo da quei lavori della fine degli anni 70, noi andiamo a ascoltare appunto un pezzo che trattiamo da Agartha, Live Sublime, e per iniziare insomma un percorso che ci porterà insomma anche lontano per molti versi da quello che si può definire, quello che per anni è stato definito jazz rock. Sì, infatti è anche giusto, diciamo, come diceva giustamente Max precedentemente, ricordare che questo brano che abbiamo estratto da Agartha, Maisha, in realtà fa parte della completa session di On the Corner del 1972, poi ripresa a livello live nel live di Agartha che è del 1976, però in realtà questo brano fa parte della completa session che poi è uscita per la Columbia con un cofanetto circa 8 anni fa, dove sono presenti tutti i brani della session completa di On the Corner, che poi è uscito ufficialmente nel 72 soltanto con alcuni dei brani della sessione completa. Ecco, questo Maisha, per dare un'informazione in più, è in realtà stato realizzato nel 72 e poi riportato nel live nel 76. E iniziamo. Basta, col maestro, col capolavoro. siamo rientrati in diretta, abbiamo ascoltato questo splendido lavoro Maisha di Miles Davis, tratto dal live Agartha del 1976. Abbiamo già detto ben oltre quello che potevamo dire rispetto, come al solito, come al solito, rispetto alla provenienza di questo brano, e abbiamo ascoltato ovviamente in partenza, dato che era una puntata intitolata Intersezioni Jazz Rock, non poteva mancare all'inizio il grande Miles Davis da questo album. Ci sarebbero tantissimi brani come quello che state sentendo in sottofondo, Aurora, dato che è un altro grande capolavoro di Miles Davis, datato 1969, The Silent Way, che ci accompagnerà per tutta la durata di questa puntata di stasera come sottofondo, anche se chiamarlo sottofondo è abbastanza riduttivo, ma ci accompagnerà sotto traccia, diciamo così, durante il corso di questo nostro viaggio piuttosto tormentato e sudato dentro Radio Città Fujiko, che comunque è sempre una splendida radio, si respira l'atmosfera degli anni 70, dunque perfetto per questa trasmissione che curerà soprattutto gli anni 70 stasera, e dunque ci ritroviamo, diciamo, proiettati 40 anni prima, 40 anni fa. Ti ricordi la trasmissione che faceva la Rai, Rai 3, 20 anni prima? Ecco, 40 anni. Sì, tra l'altro la Ghezzi l'ha anche recuperata da poco, sì. Poi 20 anni non sono più 20 anni, però sì, viene utilizzato il fatto di tornare indietro nel tempo, una macchina del tempo. Una macchina del tempo. Che fa riflettere sul presente, soprattutto. E anche sul futuro, per certi versi. Sì, beh, il problema è che non c'è molta idea del futuro. No, infatti, quello sicuramente. Quello forse è il problema di questi ultimi periodi. Invece negli anni 70, in quel periodo, soprattutto Davis, già nel 69, quando, tra l'altro, ricordiamo, Davis non aveva partecipato al movimento free jazz, e anzi negli anni 60 fondamentalmente faceva un jazz modale di grande fattura senz'altro, ma non era stato più motore innovativo come era stato già da giovanissimo con il bebop, suonando con Parker, e poi dopo insomma con esperimenti orchestrali insieme a Gil Evans. Davis insomma inventerà tante cose, però insomma negli anni 60, quando altri insomma come Ornette Coleman, John Coltrane, Sarra, insomma mi inventarono di fatto un linguaggio nuovo legato appunto, partendo dal jazz, a quelle musiche libere, liberate. Davis nel 69 si inventa di sana pianta, anche spiazzando molti di quelli che l'avevano seguito, che addirittura avevano proprio parlato di Davis non dentro il miasma delle psichedelie, delle follie, dei free jazzisti, ma appunto ancora un jazzista che riusciva a creare strutture comunque piuttosto solide. In realtà da Silent Way in poi Davis scioglierà completamente le musiche, una sorta di liquefazione sonora che farà partire quello che è stato considerato jazz rock, e questa sera noi sottolineiamo come jazz rock proprio perché nasce da questa da questo connubio, anche da questo scontro che c'è stato. E una delle altre formazioni, tra l'altro proprio nate in seno alle band di Davis, che sono state tante, nel senso che vari personaggi sono passati, tra cui anche Tony Williams. E Tony Williams, subito dopo o parallelamente all'esperienza con Davis, se ne esce con un gioiello come Lifetime, dove suonavano non a caso John McLaughlin, e quindi colui che era stato poi posto lì, così raccontiamo anche una sorta di mitologia che riguarda non solo il jazz ma soprattutto il rock. Davis nell'ultimo periodo di vita di Hendrix era molto interessato alla collaborazione, rimase folgorato dopo alcuni concerti live di Hendrix, e non per togliere niente a McLaughlin, comunque in quegli anni floreggiava e faceva cose decisamente interessanti, ma chissà cosa sarebbe successo con Hendrix, tant'è che McLaughlin tante volte volte, ricorda Hendrix, molto più pulito. Hendrix era più inventivo, più sporco, più cosmicheggiante, però di fatto, insomma, lo sentiamo anche qua con Tony Williams, con Larry Young, che nel frattempo, anche politicizzandosi, era diventato Khalid Yassin, e Jack Bruce, quindi personaggi, insomma, assolutamente prolifici in quel periodo e vulcanici in termini di creatività, e con questo Lifetime, Turn It Over, riuscirono a creare un ponte serio, anche per un uso organistico che si avvicinava molto anche al suono psichedelico, appunto, dell'epoca, fine anni 60, c'era stato da pochissimo Woodstock, e quindi faccenda che chiaramente andava a collimare, Davis andava a suonare all'isola di Wight, quindi faccende che si incastravano in maniera veramente molto geniale, nel vero senso della parola, nel senso che hanno creato delle genie. Lifetime. E siamo rientrati in diretta, assolutamente magica questa atmosfera creata da questi due brani estratti da questo splendido lavoro di Vettone Williams Lifetime, Turn It Over, uscito nel 1970, e oltretutto abbiamo scoperto, perché si scopre sempre qualcosa anche da dischi che crediamo di conoscere quasi alla perfezione, quasi come i nostri peli del pube, ma in realtà non è così. E abbiamo scoperto, ad esempio, sei fissato che stasera con i peli, non so perché, però effettivamente forse perché me ne sto contando tanti, sai, quando arriva l'estate. Ma quello te lo spiego poi un'altra volta. Perché sennò dovremmo dire che è una secrezione ormonale, forse anche quello, forse anche l'esplosione estiva. No, ma poi ti svesti, no, chiaramente, perché questo caldo è impossibile, no? Non io, solo tu, tra l'altro. No, non solo io, poi non amo molto svestirmi, ma bene così, ecco. Hai ragione. E effettivamente ti accorgi anche di tutta questa peluria che mi avvolge, dunque non avendo capelli punto tutto sui peli, no? Dunque lavoro su questo. Ma dopo questa dissertazione che forse non è che interessa molto gli ascoltatori. No, le tue fan. Sì, virtuali in generale. Virtuali perché non vengono qua in radio. Perché sennò scapperebbero direttamente. Probabilmente. Infatti. Allora, adesso sto uscendo un piccolo rospo. Allora, chiudendo. No, ti copro. Ti copri, ecco, il rospo è rientrato. Allora, tornando a Tony Williams, formazione veramente importante, anche perché, come avrete notato nell'ascolto, i grandi sopravvissuti da questo caldo rimasti a casa, perché sono tutti fuori effettivamente anche a quest'ora, soprattutto a quest'ora, dato il caldo e la bella serata comunque fuori esterna. E avrete notato come l'atmosfera psichedelica è estremamente presente in questi lavori, e come vi dicevo all'inizio, abbiamo scoperto che nella formazione c'è anche un certo Jack Bruce, che abbiamo anche riconosciuto nella voce del secondo brano che abbiamo inserito, del Lifetime, e la voce inconfondibile di uno dei personaggi importanti della scena ovviamente musicale degli anni 70 e 60, autore oltre di album personali di jazz rock, due album sicuramente da andare a recuperare, è stato anche uno dei fondatori dei proprio dei Cream. Faccio una domandina. I Cream, sì, tra l'altro c'entra anche con l'ormone Cream, sì. Sappiamo nel slang cosa significa Cream, sì, Cream. Formazione anch'essa storica. Jack Bruce ha portato avanti delle cose molto interessanti, ecco, l'altro personaggio un po' più inflazionato lo amiamo di meno, possiamo dire così, sì, no? Vabbè, insomma, vabbè. Sì, tanto lo citano sempre, basta, sì, insomma, sembriamo Massarini, insomma. Sì, infatti, vabbè, comunque fino agli anni 90 è continuato a girare. Da un po' che però non si sente, meno male, ecco, questo, dato che stanno, sì, uscendo, vabbè, comunque i Cream, dei dinosauri che stanno tornando a fare concerti, ho saputo degli SDC. Beh, quelli non sono mai mancati, come dire. Se avranno 80 anni per gamba e voglio vederli sul palco, mi viene già da ridere. Ancora in pantaloncini corti. Sì, ma lui credo che sia morto, è morto il famoso, ma quello, ah, il cantante è ancora vivo, il chitarrista, sì, ancora in pantaloncini corti, mi pare. A posto. Vabbè, tornando a noi, Tony Williams Lifetime, splendido lavoro. E adesso noi passiamo a trovare un autore che oltretutto omaggiamo anche stasera, dato che purtroppo se n'è andato proprio un mesetto fa, il 24 maggio, un grande musicista che abbiamo inserito appunto stasera anche per ricordarlo. Sì, se questa sera stiamo mettendo autori, se questa sera stiamo mettendo autori che sono stati molto prolifici in quegli anni, ovviamente anche importanti, e poi anche il discorso di fatti di Jack Bruce la dice lunga sulle filiazioni e proprio anche l'innesto tra il jazz e il rock e viceversa, no? Poi Cream. E chi lavorava facendo pochi dischi nel corso della sua carriera, Marcus Belgrave, che appunto omaggiamo, purtroppo ci ha lasciato qualche settimana fa, e ha fatto pochi dischi, ma veramente dischi eccezionali nel voler sperimentare sempre un jazz parallelo, soprattutto con Gemini, un disco che lavora su un jazz che è completamente mutato attraverso sia le psichedelie, che questa sera sono fondamentali, e anche qua discorso del jazz rock ci sembra molto differente rispetto alla fusion, dove scompare qualsiasi alterità, viene normalizzato un suono, non ci sono più appunto sogni utopici, politici o oppure musiche che si fanno alterate per via o di sostanze, insomma, che utilizzavano di tipo psichedelico o per appunto divagazioni che portavano a nuovi mondi axeliani, a visioni, insomma, che appartenevano alla fine degli anni 60, primi anni 70, legati appunto alle psichedelie. Marcus Belgrave fa uscire questo Gemini che ha tanto di funk, ha tanto di cosmice, ha tanto di quell'elettronica che poi diventerà anche faccenda importante per quello che sarà il proseguo della carriera, ad esempio, di un altro grande che uscirà sempre da Davis, ovvero Herbie Hancock, che creerà in anticipo di 10 anni l'elettrofunk. Appunto, creando un funk con intersezioni, insomma, decisamente interessanti legate all'elettronica. E Marcus Belgrave, diciamo che dilata ancora di più il suono di In a Silent Way che abbiamo in sotto traccia, come diceva appunto prima Eliseo, e ne esce appunto un lavoro quasi astratto, tant'è che influenzerà poi molti anni dopo, un disco dei primi anni 70, influenzerà moltissimo nel 74 un lavoro come quello di Carl Craig, che omaggerà Marcus Belgrave come punto di riferimento per quanto riguarda le musiche degli anni 70, tra le più immaginifiche, tra le più surreali quasi. Ci andiamo a sentire tra l'altro con un pezzo che si chiama Space Odyssey, quindi ci siamo in pieno con quello che abbiamo detto fino adesso. Perfettamente.